Entro sulla base, allora già lasciami piace. Un flow vorace che succhia dalla tua testa. A 13 anni c'è chi ne è capace. Parla di ganja tipo tempesta. Chissà cosa ho da dire in questo nuovo EP. Cosa è cambiato in me dal primo volume? So che non mi ascolti dalle casse del PC. Sto già nel tuo cervello, allora cazzo alza il volume. Sono narcolettico, le crisi epilettiche. Suono le mie corde col plettro tipo chitarra elettrica. E un suono stantio, mio dio, passate di moda. Puzzi gorgonzola, minchia sta merda funziona. Visto che trip, it's the second volume. Premi già skip, ti auguro di morire col volume. Posso fare nomi e li farò, vuoi stare nell'album? Detto fatto. Grindbuster è l'hacker del mio canale. Ehi bastard, stai scherzando con l'animale che può ruotare la testa come un gufo. E scusa ma siamo amici, ma vaffanculo. Non prendi in giro nessuno, idiota sociale. 100 like non ti fanno mica avere il pane. Sono Dio, un cane bastardo. Se sento i tuoi pezzi vado al bagno, bleh. La base è una hit, non mi compri coi click. Mi compri col cash, abbi cura di te, please. Stappo lo champagne, mi vedi più dark. So cosa pensi, tipo la Kazam. Faccio un ride, tipo lo zio Bush. E oltrepasso l'hardline per buttarmi di sotto. Prendo l'ultimo etto dal mio pusher prima di innescare la bomba e fare il botto. Faccio un aerosol di ice, una carneficina. Do fuoco con la benzina, ogni mia barra è una 619. Mi alzo presto la mattina e non per volontà divina. Un cervello così fuso, tanto che fila. Questi passi spaccano il timpano. E sti cazzi se dici che sono finto. Ma perché non ti ammazzi? Sei sempre in mezzo da due anni. Ricordi un po' sarà strong. Rime cattive prive di un concetto. Tipo fare l'amore in un luogo aperto. E pensi che non ho altro in serbo? Faccio un attentato tipo uno studente serbo. Ho indossato di nuovo la maschera. Sono il mostro che massacra scena macabra. Quando pensi sia finita, hai perso la partita, inserisci la moneta. Game over. Hey.